America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Thank you very much. It's very familiar territory, news conferences, because we used to give them on a almost daily basis. Donald Trump, prima conferenza stampa da luglio scorso, prima conferenza stampa da presidente eletto, devo dire, è avvenuta in un contesto complicato, in un contesto complesso. Perché? Beh, perché proprio la sera prima un sito, BuzzFeed, ma anche la CNN, avevano rivelato l'esistenza di un documento che sembra sia stato compilato da un ex agente dello spionaggio britannico, in cui si rivelavano, diciamo, degli episodi molto imbarazzanti di certi viaggi a Mosca o comunque in Russia di Donald Trump, sia dal punto di vista sessuale, rapporti con delle prostitute, sia, sembra, dal punto di vista finanziario. Ecco, questa cosa è giunta come un fulmine a ciel sereno, naturalmente. Devo dire, Trump ha organizzato una risposta molto ben fatta, anche perché alcuni giornali americani, i più importanti, il New York Times, avevano questo documento da parecchio tempo, ma non lo hanno mai verificato, hanno deciso che non era un documento credibile, non era un documento pubblicabile. E invece, nel momento in cui i servizi segreti americani, nel dare il rapporto confidenziale a Trump e Obama, li hanno informati dell'esistenza di questa cosa, ecco che BuzzFeed e CNN si sono sentiti autorizzati di renderlo pubblico. La cosa è molto interessante perché di nuovo ci pone il contesto etico, il contesto della gestione dell'informazione su internet, questa presunta libera informazione che poi invece può essere post verità, può essere deformazione dei fatti. Insomma, il problema qual è? È che oggi ci troviamo in una situazione in cui, tra virgolette, tutto vale. Si può dire tutto, il contrario di tutto, esce su internet e diventa verità. La cosa, devo dire, che mi ha colpito è che molti dei siti italiani, senza fare nomi, ma la maggioranza, anche quelli dei principali quotidiani, contrariamente a quello che ha fatto il New York Times, il Wall Street Journal, insomma i più importanti media americani, hanno rivelato i contenuti più piccanti contenuti in questo documento che sembra sia un falso storico. E dunque domandiamocelo anche noi: vale la pena di confondere le acque in nome del sensazionalismo e magari in nome della ricerca di un click in più? I think it's pretty safe. First of all, it's illegal. You know, these are classified and certified meetings and reports, but I have no loans with Russia at all. I have no loans and I have no dealings. Ecco, avete sentito qui la risposta di Trump in conferenza stampa di ieri. Dice: credo che sia molto triste che i rapporti dell'intelligence vengano poi pubblicati sui giornali, innanzitutto perché è illegale, si tratta di documenti e incontri classificati. In ogni caso, non ho alcun affare in corso in Russia, né tantomeno prestiti o debiti. Trump però ne ha approfittato per rilanciare, per dire alcuni punti importanti. Intanto ha ammesso per la prima volta formalmente che le operazioni di hackeraggio contro il Partito Democratico sono state fatte dai russi. Dopodiché ha aggiunto che ci sono state molte altre operazioni di hackeraggio fatte per esempio dalla Cina, per esempio dalla Corea del Nord, quando penetrò i computer della Sony, e quindi su questo è intervenuto. We will be coming up with a major report on hacking defense. Ecco, qui Trump dice: nei prossimi 90 giorni riceverò un ulteriore rapporto dell'agenzia di intelligence sugli attacchi informatici, su come fermare questo fenomeno. Gli Stati Uniti sono attaccati da chiunque, questo include tanto la Russia quanto la Cina, quanto altri attacchi naturalmente. Donald Trump ha affrontato anche altre tematiche, ha dato la notizia di aver costituito un trust, un conto fiduciario, che sarà gestito esclusivamente dai figli e dal suo principale socio, per cui dice: io mi chiamo fuori. E poi ha raccontato, devo dire, fantastico Donald Trump, perché racconta, come dire, dettagli che dovrebbero restare così confidenziali, intimi, e invece li racconta come se niente fosse. Per cui dice: ma dice, ieri mi sono incontrato con un businessman del Dubai e questo signore ha messo 2 miliardi di dollari sul tavolo per fare un affare insieme in Dubai. E io gli ho detto di no, io gli ho detto che non potevamo fare questo affare, mi dispiaceva molto, una bravissima persona, un mio vecchio amico, ma noi ormai di affari di questo genere non ne facciamo più. La responsabilità della gestione di questo conto fiduciario e dei figli, Trump ha chiarito che lui non avrebbe neanche dovuto farlo questo conto fiduciario. Il New York Times tuttavia lo ha attaccato per non aver fatto abbastanza. Secondo il New York Times avrebbe dovuto vendere tutto e restare assolutamente liquido e dare questa liquidità in gestione a qualcun altro che non fosse della sua famiglia. Ecco, secondo me si pecca un po' d'eccesso, tanto più che appunto Trump come presidente, attenzione, come presidente non era tenuto a farlo. Comunque sia, il fatto centrale che emerge dalla conferenza stampa di ieri è questo rapporto con la Russia, con questa Russia che continua a rispuntare. Donald Trump, che rispondendo a qualcuno che gli chiedeva, dice: ma lei non è preoccupato dal fatto che Putin dica che la stima? E Trump risponde: no, assolutamente no, anzi, mi fa molto piacere, mi rende orgoglioso essere stimato da una persona come il leader russo, è un fatto positivo, vuol dire che forse possiamo parlare e fare degli accordi. Ecco, è questo il punto chiave, secondo me, della conferenza stampa di ieri. Non lasciamoci prendere dagli abbagli delle nuove imminenti sanzioni che verranno dal Congresso per l'hackeraggio contro il Partito Democratico. Tra l'altro Trump ha detto: beh, il Partito Democratico non ha saputo come gestire questa cosa, è stato avvertito e ha risposto malissimo. Oppure delle nuove rivelazioni, tra virgolette, esplosive, quel materiale devastante su Trump che Vladimir Putin avrebbe pronto in qualche cassetto. Insomma, alla fine la verità è che la Russia resterà il primo interlocutore internazionale con cui il presidente eletto Donald Trump cercherà, secondo me, di raggiungere un accordo, pensando soprattutto alla guerra contro il terrorismo. E Trump in sostanza è riuscito, con l'abilità tipica del businessman, dell'uomo d'affari, a trasformare un danno potenzialmente devastante sul piano dell'immagine in un vantaggio. La questione della guerra all'hackeraggio diventa un tema centrale su cui concentrarsi, non soltanto sul piano interno, ma è evidente che bisogna portare più protagonisti al tavolo, tra cui Vladimir Putin stesso. Il leader cinese Xi Jinping se ne potrà parlare al G20, però questo secondo me fa riprendere quota al tema compartimentalizzazione dei rapporti con Mosca degli Stati Uniti e alla possibilità che Putin possa essere di nuovo incluso nel G7, che tornerà ad essere G8 già nell'appuntamento italiano di Taormina della prossima primavera. Tra l'altro, a conferma di questo posizionamento, diciamo non necessariamente di chiusura, di Trump nei confronti della Russia, c'è stata l'audizione ieri in Senato di Rex Tillerson, prossimo futuro segretario di Stato. È stato attaccato tra l'altro proprio da Marco Rubio, gli ha chiesto: ma caro Tillerson, non è forse vero che Vladimir Putin è un criminale di guerra? Ecco, questo è un repubblicano, ex concorrente di Trump. Tillerson ha detto: no, direi che non è un criminale di guerra, non mi permetterei mai di definirlo in questo modo. Ci sono naturalmente molti episodi di grande preoccupazione per noi che riguardano il comportamento russo, ma su alcuni di questi cercheremo di lavorare. E in qualche modo ieri Trump, dietro i vari fumi degli scandali, dei paraventi sessuali, eccetera, eccetera, ha ribadito che lui non si scosterà di un millimetro dal suo obiettivo, e cioè di cercare di riallacciare dei rapporti produttivi con la Russia. Se poi la Russia si comporterà male, ha detto, sarò durissimo con loro, certamente molto più duro di quello che avrebbe potuto essere Hillary Clinton, e credetemi, questo Vladimir Putin lo sa. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!